Radio 24 presenta Platone, la caverna dell'informazione di Leonardo Manera. Sabato 23 agosto 2014, voi siete probabilmente ancora in spiaggia, anche se già ci sono stati i primi rientri dalle vacanze, alcuni hanno già anche ripreso a lavorare. Noi invece siamo sempre qui a Radio 24 con Platone, la caverna dell'informazione, che si occupa di commentare le notizie vere e poi di metterci qualcosa anche di nostro. E tutto questo lo facciamo con Alessandro Milan. Eccoci qua, ben trovato Leonardo, come va? Ben trovato Alessandro, ma sì, guarda, nel complesso potrebbe andare meglio. Ah, benissimo. Ricordiamo che siamo anche in replica la domenica alle 18, magari ci state ascoltando domenica. Certo, e ricordiamo anche che potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica platone@radio24.it. Abbiamo anche l'account Twitter platone24. Abbiamo fatto così perché gli unici che non vanno mai in vacanza sono i cinesi, è giusto? esatto, ma sai che è vero, Vicino a casa mia c'è un bar di cinesi aperto anche il 15 e 16 agosto, c'era scritto. Ma io ho degli amici cinesi, loro mi dicono: noi non abbiamo proprio la cultura delle vacanze, abbiamo la cultura del lavoro. Va bene, cominciamo a vedere un po' che notizie, di quali curiosità anche estive possiamo occuparci. Ecco, diciamo curiosità estive, magari molti di voi non sono ancora andati in vacanza oppure sono appena tornati, e allora quelli che sono tornati, questo vademecum sulle persone con le quali non andare mai in vacanza. Allora, queste persone che sono già tornate magari ci si ritrovano. Allora, caro Leonardo, sai che non devi mai andare in vacanza con la coppia litigiosa e o appiccicosa. Io sono stato in vacanza, ero in coppia, sono andato in vacanza con un'altra coppia litigiosa. Sì. Noi non eravamo all'inizio litigiosi, alla fine ci siamo lasciati tutti e quattro. Certo, e vi siete messi una vacanza terribile. No, a Lampedusa eravamo. Oppure altro errore da evitare, state partendo, farvi ospitare a casa di chi si conosce poco, sai, quel ci collega. Mi è capitato. Che appena vai vuoi scappare. Dunque, a Lampedusa era la casa di un cugino di uno che era con noi in vacanza. Era una casa terribile, c'erano tutti i materassi polverosi. La mia ex ha pianto quando siamo arrivati. È la stessa con cui poi ci siamo lasciati. Una vacanza terribile. Poi evitare i parenti di ogni tipo. Beh, quello tutti sono stati in vacanza con i parenti. Oppure evitare gli amici molto più ricchi oppure gli amici molto più poveri. Insomma, è un casino scegliere. Con chi devi andare? Con nessuno puoi andare in vacanza. Vai da solo. E ti amareggi perché vai da solo a vedere le altre coppie felici. No, ma perché sennò stai a litigare, andiamo lì a ma no, costa un po' troppo, ma costa poco, no? Allora, prima di andare in vacanza bisogna chiedere la dichiarazione dei redditi delle persone con cui si va. Esatto. Ma io vedo anche un'altra notizia che è stata abolita, insomma, è già una notizia di cui si è parlato qualche tempo fa, che ma non quale? C'è più Miss Muretto. Ah, certo, non c'è più Miss Muretto, attenzione, è finita la favola. Manifestazione storica. Voluta da Hemingway dopo 60 anni, non c'è più Miss Muretto. Ma veramente l'ha voluta Hemingway? Ma questo non lo so, l'ho letto sulla stampa di recente. Sì. Inventata addirittura. Inventata da Hemingway. Scriveteci, Platone è @radio24.it, è vera questa cosa o no? Anche per protestare contro la chiusura di Miss Muretto. Io voglio tutte le manifestazioni dove la sai donna... chi ha vinto Miss Muretto in passato? No, Hemingway, no. Maria Teresa Ruta. Ah, caspita. Simona Ventura. Beh, tutte belle donne. Marisa Allasio, ma chi è? Tu non ti ricordi Marisa Allasio, veramente? No, era quella attrice dalle forme procaci che fece il film appunto Venezia, la Loma e tu, la Loma, Venezia, la Luna e tu con Alberto Sordi. Infatti dice qua, diventata una brava attrice a commedia anni 60. Certo. Vedi che sono i tuoi tempi, bravo. È l'unico film dove Sordi cercava di parlare con accento veneto. Comunque, Ernest Hemingway si fermò ad Alassio, al Caffè Roma, cercando il suo whisky preferito, l'Antiquary invecchiato 12 anni. Lo trova ad Alassio, e si siede sulle poltroncine in vimini e in poche ore finisce la bottiglia. Si alza, riprende la strada di Santa Margherita dove alloggiava e promette di tornare. Promessa mantenuta, quell'estate sono tanti pomeriggi che lo scrittore passa da Lassio. E quindi da lì. Quindi non capisco il passaggio a Miss Muretto, però. Ogni volta che sento una notizia letta da Alessandro Milan mi vengono i brividi. Ah, ecco, a un certo punto Hemingway propone a Mario Berrino, che era lì di Alassio: perché non copri quel muretto con piastrelle colorate con le firme dei personaggi che vengono nel tuo bar? Nasce così il muretto. E poi gli dice: fai passeggiare le ragazze più belle sul muretto. E da lì nacque. Sotto le firme. Perché vedi come è nato Miss Maglietta. Questa è cultura. Io spero che adesso venga sostituita con Miss Maglietta Bagnata. Tutte quelle manifestazioni che si vogliono abolire perché la donna viene vista come oggetto. No, la donna ha anche... Le promuoviamo. Assolutamente, perché la donna ha anche una componente esibizionistica anche un po' più forte dell'uomo. Quindi la donna bella tende anche a mostrare... Sei sul terreno minato, voglio vedere come riesce. Allora, scrivete a Platone 24 se pensate che queste manifestazioni vadano tenute in vita oppure no. Io penso di sì. Insomma, anch'io penso di sì. Ci sono anche donne che provano piacere nel fare queste cose. Anzi, vorrei far parte della giuria, insieme a Leonardo Manera. Io una volta ho fatto parte... Allora, ti racconto... Con una fidanzata con cui ti sei sfidanzato. Allora, ti racconto questo aneddoto che fa anche un po' tristezza. Ero andato a fare l'ospite, un pezzo di cabaret, in una selezione provinciale di Miss Italia. Provinciale. Neanche regionale. Massimo della... Alla fine è venuta la madre... In che provincia, scusa? È provincia di Brescia. Era la provincia di Brescia, c'era una selezione regionale. Allora, alla fine è venuta la madre con la figlia, che avrà avuto 17 anni. Quella e ha vinto? No, non aveva vinto. La madre mi dice: so che lei fa televisione, se lei potesse aiutare mia figlia a fare televisione... Io la do in pasto. Sì, no. Esatto. Così. No. Leonardo Manera, io ti amo. Ma siccome io sono una persona integerrima, ho detto: signora, guardi, io non posso fare nulla. Però perché... con lei... Però con la mamma, sì, con la mamma sì. Ho intrecciato una lunga relazione. Va bene, e questo sono il nostro un po' di cazzeggio iniziale, ma adesso noi abbiamo anche un ospite. Siamo qui con Alberto Patrucco, noto comico e anche polemista, direi, perché è amante spesso della polemica, e quindi gli abbiamo chiesto di commentare qualche notizia che più o meno riguardi l'estate. Buongiorno Alberto. Buongiorno, sì, è giusto per non smentire la griffe che mi hai appiccicato, io volevo dedicare agli ascoltatori, ma dedicare a te, questa che è un po', visto che si parla di estate, la mia risposta in prosa alla celebre canzone di Bruno Martino, Odio l'estate. Odio l'estate, certo. Classe 1960, la canzone ovviamente, 1960, una sorta di decalogo avrei composto per la bisogna, anzi più che un decalogo, un ventalogo, dal titolo Contro il mare. Se me ne dai facoltà io partirei. Quindi 10 motivi per odiare il mare. Ma forse 20. Ventalogo, Va bene. Allora, partirei così. Partiamo. Odio il sole, odio il sale, odio la sabbia. Non vedo perché non dovrei odiare anche il mare, no? Odio la ressa che puzza d'olio abbronzante, odio le api, le vespe, i ragni, le formiche, i granchi, le meduse, i ricci, gli squali e le orche attratti dal caramelloso odor di cocco e carota che emana la pelle cosparsa d'olio solare cotta al sole. Odio dover rimanere fermo come una lucertola mentre la mia pelle al massimo da rossa diventa viola. Odio masticare granelli di sabbia con il panino al prosciutto. Odio patire la sete, odio l'infame gusto dell'acqua salata che immancabilmente tracanno appena entro in acqua. Odio dover spalmare di unguenti oleosi i miei lardosi vicini di ombrellone. Odio ritrovarmi unto come un krafen che trasuda maionese. Odio i bambini, soprattutto quelli degli altri, perché orinano e defecano sul bagnasciuga ed è la cosa meno fastidiosa che fanno. Odio palette e racchettoni, tra i giochi più idioti del mondo, perché rompono le palle, nella migliore delle ipotesi soltanto metaforicamente, quando non ti centrano davvero. Odio dovermi ustionare le piante dei piedi sulla sabbia bollente e i palmi delle mani sul volante abbrustolito al sole. Odio entrare in un abitacolo bollente, ma così bollente che non avrebbe esitato a giudicare eccessivo anche un comandante delle SS. Odio avere le dita attaccaticce di creme e leggere uno dei miei sacri libri rimasti in fondo allo zaino con le banane e l'olio solare, quello che non si chiude bene. Odio anche le 2000 persone in più che stanno sulla mia stessa spiaggia, le stesse che mi ritroverò al ristorante, al parcheggio e in coda per il rientro a casa. Odio le vacanze al mare. Non vedo quindi perché non dovrei amare la Svizzera. Viva la montagna, il fresco, il fustagno, i pantaloni di velluto alla zuava, i calzettoni di lana, il camino col fuoco, la grappa, i mirtilli, l'edelweiss e il capriolo. Viva la Svizzera, una nazione che non ha sbocco al mare e che senza capire nulla di vela nel 2003 ha vinto anche l'America's Cup. Ecco, questo era il mio pensiero un po'. Direi che a parte l'estate odi anche quasi tutto il genere umano, Alberto. Sì, no, ma infatti, ma era giusto per smentire la tua tra l'altro di tempo fa, a proposito della Svizzera, a Berna un mio amico italiano, passando davanti al Ministero della Marina svizzera, si è avvicinato alla guardia del palazzo e ha detto: scusi, ma che ve ne fate voi del Ministero della Marina? E la guardia gli ha risposto: e voi che ve ne fate del Ministero delle Finanze? Ecco, questo mi la chiusa degna. Una chiusa degna. No, forse anche questa potrebbe andare. Insomma, sai che, caro Leo, sai che c'è chi anela ad essere profeta in patria. Personalmente credo sia molto meglio fare il banchiere in Svizzera. Io mi fermerei qua se grazie. Sei d'accordo. Grazie Alberto, noi ci sentiamo anche la settimana prossima e grazie intanto per essere stato con noi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Questo era Alberto Patrucco, nostro ospite oggi qui a Platone, però l'estate è anche il periodo delle manifestazioni, fiere, mostre, spettacoli, cultura in generale, e tu Alessandro, hai proprio Alessandro, mi piace dire il nome intero. Oh. Comunque, la notizia culturale qual è? Allora, è stata fatta una scoperta nella zona del lago Baikal, dunque siamo in Russia, che riscrive la storia dei nostri animali preistorici. Perché secondo questa scoperta, pensa un po', tu sei abituato a pensare al Tyrannosaurus Rex, no? Con un vecchio lucertolone, certo. E invece erano coperti di piume, giuro, secondo questa ricerca, questa scoperta in Russia, erano coperti di piume più simili a dei grandi polli piuttosto che a delle grandi lucertolone cattive. Ma sulla base di cosa? Prima si descrivono in un modo e poi completamente nell'altro. Nel 2010 hanno trovato dei fossili estremamente ben conservati di piccoli dinosauri di 1,5 metri e hanno ricostruito, quindi, questo Culindadromeus. Sì, Culinda è il nome del fiume vicino al quale ho capito. Culinda sembra un insulto milanese. Culinda. Culinda. No. Culinda, perché momento? È il nome del fiume vicino al quale sono stati trovati questi in Africa? Esatto. No, in Russia. In Russia. E allora hanno ridisegnato la figura di questi animali preistorici che sono più simili a polli che a lucertole. Che ti devo dire? Su questo si potrebbe fare una mostra e noi in proposito abbiamo l'assessore di una piccola città qui ospite, Gottarello, questa piccola città, e l'assessore Birolli ha preso una iniziativa particolare. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti voi, buongiorno Manera, felice di essere qua, buongiorno Milan. Di che iniziativa si tratta? Allora, si tratta di un'iniziativa che invitiamo a fare anche agli altri assessori delle città di tutta Italia, perché basta! Noi abbiamo deciso di abolire l'assessorato alla cultura e di sostituirlo con un più moderno, più smart assessorato al passatempo, che io credo sarebbe utile ovunque, smart, capito? Va bene, certo. E come mai questa scelta? Perché della cultura intesa come si intendeva una volta non gliene frega più niente a nessuno, ma lo vogliamo capire? Ma chi se ne frega di sti filosofi come Nietzsche, Schopenhauer, ma chi so? Che tra l'altro sono pure morti da tempo, perciò sono anche superati. Vedi? Farsi dare le regole di vita da un filosofo morto dei 100 anni fa e comandare in autostrada, che posso dire, con una Topolino, ci ha presente la Topolino? Certo, sì. Bisogna essere più smart, altrimenti gli altri te passano davanti, capito? Certo, e lo dico a tutti i miei colleghi, e una volta che qualcuno ti è passato davanti, stai dietro, capito? Capito. Quindi in cosa consistono le vostre iniziative? Ma per prima cosa, ecco, una cosa che abbiamo fatto molto utile, perché mi ero proprio incazzato quando ho visto una biblioteca comunale, pensi? C'erano libri dei 500 anni fa, tutti pure scritti a mano, ma come si fa a scrivere i libri a mano? Li abbiamo messi tutti fuori per strada, così, buttati, con un cartello che diceva: per chi ha tempo da perdere, eccoli qua. Oh, stanno quasi tutti ancora là, non li vuole nessuno. Poi al posto di quei libri che abbiamo fatto, abbiamo levato, ci abbiamo messo la serie dei prodotti dedicati al passatempo, per esempio i racchettoni per giocare sulla spiaggia e altre cose, tutte cose, insomma, di questo tipo qua. Poi abbiamo invitato per una esibizione, pensi un po', perché invidiamo i personaggi, quelli seri della televisione, e abbiamo invitato il signor Brumotti, che c'ha presente quello che va sulla bicicletta a Striscia la Notizia. Certo, sì. Oh! Abbiamo fatto il pienone! Ma quali cazzo di libri di filosofia! Brumotti vince su tutti! Sono venuti da tutta Italia! E siccome grazie a Brumotti abbiamo fatto il pieno, gli abbiamo dedicato anche la parte di biblioteca rimasta. Così adesso la gente viene più volentieri anche a prendersi i libri! E non le sembra in questo modo di svilire un po' la cultura? Ma è cultura, è cultura! L'importante è essere smart! Perché te l'ho già detto prima, quando qualcuno ti è passato davanti, stai dietro e non c'è sta niente da fa. Segnatelo, Munari! Grazie, assessore Birolli. A proposito di qualcuno che ti è passato avanti e stai dietro, noi andiamo a sentire come va il traffico. Anziano, sei fiaccato dopo un anno di litigi con la tua famiglia che ti ospita controvoglia? Vuoi passare una vacanza in piena tranquillità, lontano dalle tensioni della famiglia? Allora prenota subito la tua vacanza al mare presso la pensione Bellugi, situata a soli 30 km dalla costa e dotata di camere standard e deluxe, che prevedono nella stanza anche un letto e un comodino con abat-jour funzionante. Anziano, dimentica le tensioni e corri subito alla pensione Bellugi, la pensione che rende complicato l'accesso alla spiaggia, ma felice il tuo ritorno a casa. Otmin Rick. Platone, la caverna dell'informazione. 23 agosto, si corre veloci verso l'autunno, ma invece c'è chi è ancora in vacanza, chi si gode ancora il sole e il mare, soprattutto nel centro-sud, che sono le zone notoriamente dove si va al mare, Alessandro, anche fino a ottobre, no? Addirittura. Ottobre, beh, sì, novembre, a volte fino a gennaio si va al mare. Però noi dicevamo di persone che sono ancora in vacanza, e allora abbiamo al telefono un ospite prestigioso, è un autore, scrittore, autore televisivo che ha partecipato alla scrittura di alcune fra le migliori e peggiori trasmissioni televisive, Michele Mozzati. Buongiorno Michele. Buongiorno Leo. Allora, ti è piaciuta la presentazione, migliori e peggiori programmi? Speriamo migliori e un po' meno peggiori, però va bene tutto, dai. Essendo coinvolti tutti in questa cosa qui, tutti noi, sì, possiamo anche dire peggiori, insomma. Beh, io invece cito fra i migliori Sulla Testa, che è un programma, credo, del 93, giusto? Guarda, l'anno non me lo ricordo, potrebbe essere 92-93. Sì, secondo me erano quelli gli anni di Tangentopoli, e io lo ricordo ancora come una delle trasmissioni di cabaret di comicità più belle in assoluto, insomma, degli ultimi 30 anni. È stata veramente emozionante, un'esperienza unica, che però ci ha anche permesso poi di affrontare altre esperienze, forse più popolari, no, come Zelig. Zelig tra l'altro riprenderà anche a ottobre, insomma, vedremo come andrà. Ad ogni modo, speriamo bene. Come vedremo, no, andrà benissimo, naturalmente. Certo. Comunque, io ti ho chiesto di commentare un articolo, notizia, che riguarda l'estate, che è uscita quest'estate, quindi sono curioso di sapere quale hai scelto. Ah, questo è molto divertente perché abbiamo già consumato quasi tutto il tempo a disposizione, per cui cercheremo di stringere. Allora, è una notizia che non riguarda una sola testata o un solo giornale, ma un po' diffusa in sordina, e riguarda il luogo dove io da tanti anni con tanti amici vengo in vacanza, è l'isola di Stromboli. L'isola di Stromboli, che è la più particolare delle Eolie, la più vicina a Napoli, la più lontana dalla Sicilia, la più forte come impatto. Ma la notizia è che quest'anno il vulcano da giugno fino ad oggi, quindi ormai siamo quasi alla fine dell'estate, è in particolare tensione, diciamo, ci sono molte eruzioni. Ci sono botti che si sentono in continuazione sull'isola, c'è una visibilità anche dei crateri, se ne sono aperti altri, molto forte, tra l'altro straordinariamente spettacolare, però fa anche un po' di paura perché il vulcano è una cosa così quasi... è quasi una cosa del nostro subconscio, no? Qualcosa che risveglia una paura ancestrale. Ecco, volevo intanto tranquillizzare noi per primi e tutti che il vulcano è sotto osservazione strettissima da parte di tutti gli esperti e quindi non ci sono pericoli di questo genere, non pericoli ovviamente legati a degli allarmi particolari, ma c'è questa straordinarietà mondiale, perché lo Stromboli è l'unico vulcano che ha una attività perenne da almeno 2000 anni, quindi è una cosa particolarissima, vengono da tutto il mondo per salirci e guardare i crateri, è uno degli spettacoli più straordinari che noi facciamo ogni anno, tra l'altro quando veniamo qui in vacanza almeno una volta saliamo questi 1000 metri di sabbia nera e arriviamo sulla vetta a guardare i crateri. È una cosa straordinaria, non è pericolosa e si può vedere questo spettacolo straordinario. Io consiglio a tutti, a tutti quelli che possono andarci, di andarci. Tra l'altro tra pochi giorni ci sarà una manifestazione straordinaria qui a Stromboli che si chiama Festa del Fuoco, in cui tutti i giocolieri si esibiranno Esatto, da tutto il mondo, ogni anno vengono dall'India, dal Pakistan, dalla Norvegia, dagli Stati Uniti, vengono i giocolieri di strada che utilizzano il fuoco nei loro giochi e fanno delle cose straordinarie. Per 10 giorni l'isola è incantata da questi grandi artisti, spesso sono artisti internazionali di assoluta qualità. Quindi la vera notizia che possiamo dare è che tu sei stato assunto dall'ente di promozione turistica di Stromboli. Stavo pensando mentre parlavo, dicevo, non lo sanno nemmeno, cioè glielo dirò fra qualche ora, dirò guardate che ho detto Radio 24 questa roba qua, e tutti diranno ma sì, ma non è vero, ma dai, invece sì, invece è vero. E quindi avrai questo lavoro aggiuntivo. Almeno poi mi trattano meglio. Grazie Michele per essere stato con noi, ti auguriamo buone vacanze. Ciao, grazie. Grazie a tutti voi, un abbraccio a tutti. Ciao. E questo era Michele Mozzati del duo di autori televisivi Gino e Michele. Allora, dicevamo, c'è chi rimane in vacanza a Stromboli, invece c'è chi pensa al lavoro, giusto? Esatto, al lavoro o alla pensione, visto che Stromboli è in Sicilia. Senti un po', Leonardo, sai che esiste un segretario generale all'Assemblea regionale siciliana, cioè il Parlamento siciliano, che guadagna, indovina quanto? Si chiama Sebastiano Di Bella. Non lo so, guadagnerà 50.000 euro l'anno. 600.000 euro l'anno. Caspita, e come fa? E come fa a spenderli soprattutto? E attenzione, siccome volevano mettere un tetto da 240.000 euro come in tutta la... E cosa devono coprire? Effettivamente. Vedi che ero andato oltre. Sai cosa si è studiato lui per evitare questo tetto? Sì. È andato in pensione a fine luglio. È andato in pensione e guadagna 1.500 euro al giorno. Di pensione? No, di stipendio. E quindi adesso la pensione sarà parametrata su quello stipendio lì. Cos'è la pensione? I tre quarti, la metà? Non lo so, però si è salvata una bella pensione d'oro per quel che riguarda la Sicilia. La vita è così, vedi, c'è chi mangia troppa minestra, chi salta la finestra. C'è chi scende, c'è chi sale. Quella delle scale. C'è chi sbaglia a fare le strisce, c'è chi invece avvelena le bisse, ma la vita è bella. Basta avere un'ombrella che ripara la testa. Basta parole, combinate qualcosa. Siete come tutti gli uomini che parlano e poi... non concludono niente. Va bene, allora vediamo se c'è qualche ascoltatore che ci vuole parlare di lavoro, se ha qualche esperienza. Il 23 agosto, magari è tornato alle vacanze, vediamo se troviamo qualcuno. Vediamo, pronto, buongiorno. Chi era? Parecchio. Oh, Battista, come sta? Battista Cavaglione Veronese, ex agente di commercio, attualmente imprenditore. Oh, capisci? Tu chi sei? Milan? Io sono Milan, sì. Milan, quello che fa la segna al mattino? Sì, quello lì. Ti ascolto sempre, no? Oh, come mi ascolta sempre? Che bello! Ti ascolto sempre, ma con la radio spenta, non so come faccio. Infatti mi sembra. Capisci, Mila? Capisco. Quando so che ci sei tu, spengo la radio. Ottimo. Ti ascolto sul podcast, no? Come si chiama? Podcast. Quello, no, ma comunque non mi piace, Mila. No. Comunque voglio dire che anch'io sono andato come tanti altri italiani a produrre all'estero, perché in Italia lo Stato ti chiede le tasse ma non ti dai i servizi. Per esempio, se hai bisogno di andare al pronto soccorso, manca poco che infermieri per prendere la barella devono mettere la moneta come a carrello al supermercato, capisci? Addirittura. Poi gli italiani, Mila, sono sempre quelli più penalizzati, gli italiani. L'ultima volta che sono andato al pronto soccorso mi hanno dato un codice bianco, ci ho messo un giorno prima di entrare. Invece dopo di me è entrato un cinese, è andato al codice giallo, è entrato subito, capisci Mila? Ah vabbè dai, un gran classico. Io non ho niente contro i cinesi, ma è troppo numerosi, si riproduce come lepri. Guarda che le donne cinesi partoriscono in 3-4 mesi, viene fuori il bambino già pronto in 4 mesi. Addirittura. Se andiamo avanti così poi te li trovi dappertutto, te li trovi i preti cinesi in chiesa a dire messa, quando arriva la comunione ti dà ostia fritta, capisci Mila? No, no, dai. E invece le cliniche private, è più serie le cliniche private, ti opera anche quando non è necessario. Come forma preventiva, Mila. Ah, bello. Io avevo un dolore all'appendicite, sono andato in una clinica privata, me l'hanno tolta 3 volte. Questo vuol dire essere seri, Mila. Serissimi. No, come fai? E invece in Italia c'è troppa burocrazia. E anche i trasporti pubblici non funzionano. L'unico treno che arriva in orario è Frecciarossa. Sì. A parte non capisco perché si chiama Frecciarossa. Che è il capotreno? Toro seduto? Ma poi tutti gli altri hanno dei ritardi che sembra che il capotreno, capisci, è sempre incinta per i ritardi. Se vai da Verona a Venezia con un treno interregionale per arrivare in orario devi spostare Venezia a Vicenza, capisci Mila? Ah, effettivamente. Hai capita questa, Mila? L'ho capita, effettivamente. Sì, hai capita, Mila? Sì, sei capita abbastanza, sei capita. Ce la vuoi spiegare meglio, Battista? No, l'ho già spiegato abbastanza, allora concludo qui la telefonata. Voglio solo dire che è per quello che l'Italia viene sempre declassata dalle agenzie internazionali, da quelle l'hanno, come si chiama, la standard Impulse. Da standard, quella lì no. Sì. Prima l'Italia era tripla A, poi seconda A e adesso è a fanculo, capisci Mila? Non ancora, ma ci arriviamo. Ti forse. Saluto Mila, arrivederci. Mai. Mai Battista, arrivederci. Arrivederci. Questo era il nostro affezionato ascoltatore, Battista da Cavaglion Veronese. Non manca mai una volta, mai una volta che si distragga. Ti apprezza molto, tra moltissimo. L'altro, la tua moltissimo. Trasmissione. Qual è? Come si chiama la tua trasmissione? 24 Mattino. 24 Mattino. Adesso è in pausa, ma riprenderà dal quando? Che ti facciamo? Dal primo settembre. Ah, proprio dal primo settembre riprende. Bene. Quindi tu sarai presente tutte le mattine, magari ti chiamerà Battista anche lì. Cosa dici? Chissà. Metterò un filtro apposito. Potrebbe essere. Noi invece siamo qui col nostro inviato, Fisso Ratko. Buongiorno, colgazia da mia roulotte manera, con birra in mano, air condition, musica te Goran Bregovic. Ma che posso chiedere di più? No, niente, però noi le abbiamo chiesto di fare l'inviato nei luoghi tipici dell'estate. È vero, ma infatti io sono venuto qua a raccontare per voi dove ieri sera sono stato. Perché, sai, tu vai in onda di mattina, ma io ho fatto lavoro di sera, non è che hai macchina del tempo che si può mettere assieme due cose. E allora, Manerovic, ti sei mai chiesto dove poveri cristi, no, che non vanno a vacanze e magari lavorano tutto il giorno, come possono passare qualche ora spensierata di sera? Se va a feste di partito, queste belle feste estive, no? Che hanno bandiere colorate, se mangia salamela, se beve birra, se gioca a tombola, vinci bicicla, tutte queste belle cose. E a quale festa è andato? Ratko. A festa di Lega Nord Manera, Padania Libera! Un rom che va alla festa della Lega. Ma sì, ma io vado sempre a feste di Lega Nord, perché mi diverto. È come essere in film di Luc Besson. Non sai mai dove finisce in realtà, dove comincia fantascienza. È bellissimo. Questo popolo celto da futuro incelto. È incredibile. Ma se pensi che per anni sono andati dove nasceva fiume Po, riempivano un'ampola di acqua, ampola, una vecchia provetta di urine dei bossi quando stavo all'ospedale, e questa poi ampolla che era piena di acqua andavano a svuotare in Venezia. Cioè, facevano più di 500 chilometri con macchina per fare quello che fiume Po ha sempre fatto da solo, fare arrivare su acqua in Adriatico, capisci che non ha senso. È come se Marocchino prende secchiello, va a Riccione, riempie di sabbia, poi prende aereo, scende a Africa e svuota in Sahara, capisci che lapidano quando fanno una cosa del genere. No, fanno queste cose che non hanno senso. E poi un'altra cosa che mi fa ridere che le leghisti ascoltano musica celtica. Ma chi ci crede adesso? Ma siamo sinceri, metteranno anche Radio Padania, ma pensare che leghista in sua privacy ascolta musica celtica, secondo me è più facile che regina d'Inghilterra faccia gara dei ruti che leghista ascolti musica celtica, dai! Va bene, Ratko! E torna mio Bregovic, ne ma visce. Grazie Ratko, ci sentiamo più tardi, grazie! Ne ma visce messezza, ne ma mene, ne ma te benice, visce ne ma ioi! Era il nostro inviato Ratko, sempre presente ogni settimana qui con noi. Tu vai alle feste di partito ogni tanto? Sinceramente no, mi invitano anche, ma per scelta mia, quando mi invitano a fare dei dibattiti non vado mai. Io sono andato un po' di volte a fare gli spettacoli. Però invece, insomma, la festa dell'unità evoca politici di altri tempi e anche noi li vogliamo evocare col carrello dei bolliti. Il carrello dei bolliti. visto che non ci sono fondi per le feste, allora ci dobbiamo arrangiare noi. Allora, Ignazio, tu cosa faresti in questo spettacolo? Io voglio fare il mago. Ma noi serve un ballerino, Ignazio, un ballerino. Io non sono Ricchione, ho detto che faccio il mago, anzi, ti insegno un gioco che mi ha imparato Formigoni. Ti faccio vedere come faccio sparire gli scondrini. E smettila con queste goliardate. Se vuoi fare il mago, fai un gioco serio. Se vuoi ti taglio in due Giorgia Meloni, visto che sei un amico, facciamo un melone a testa. A quanto me li fai i meloni? Avrei del prosciuttino buono. Sentite, basta parlare di cibo. Adesso me lo fai tu, il ballerino, Romano, e basta. Ma non posso. Mi sono insaccato la schiena. Insaccato. Che bella parola. Rosa, che c'è? Perché non fai tu la ballerina? Io, se vuoi, al massimo posso fare le mie vecchie imitazioni che so fare benissimo. Cari amici ascoltatori, allegria! Iervolino, ma perché non ci fai l'imitazione di Giovanna d'Arco e ti dai fuoco? Ignazio, se ogni volta che io costruisco tu distruggi, e veramente basta, allora... È arrivato! Salve le feste! Zio Silvio! Vi canto adesso una bellissima canzone in francese, come so fare io. Dai, partiamo! A Paris, si te passe per la place de Pigalle, ti tiro un bocal pien de pis. A Paris. Grazie, Silvio! Minchia, era meglio dare fuoco alle Iervolino, ci divertevamo di più! Sei single e cerchi un piatto sempre pronto da rovesciare senza gusto nello stomaco? Allora corri al discount più vicino e acquista senza indugio il tonno caporetto. Il tonno che non richiede l'uso di grissini perché è già spezzettato nella scatola e proviene da tonni con pinne di tutti i colori, gialli, rosse, marron. Tonno caporetto è il tonno per single adatto a ogni occasione. Un piatto di pasta, un sandwich con pane duro, una cena da solo davanti alla TV senza moglie o fidanzata ma in grande amarezza. Allora... non pensare al passato che non ritorna, non pensare agli amori infranti e consolati col tonno caporetto, il tonno del single che non ha pretese ma solo rimpianti. Consigliato dai migliori chef di Parigi. Oui, c'est magnifique. Platone, la caverna dell'informazione. Bentornati a Platone, la caverna dell'informazione. Vi ricordiamo anche che ci potete scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica platone@radio24.it oppure l'account Twitter qual è? Platone24. E per chi vuole interagire prima deve mettere la chiocciolina. Certo. Spiegami come funziona esattamente. Non so, uno può dire @Platone24, siete dei geni. Ecco, e perché non può dire solo Platone24? Senza la chiocciola davanti? Perché se no noi non la vediamo. Ah, serve per vederlo, sai, certo, che non lo sapevo. Se mette @Platone24, noi dall'account di Platone24 vediamo che cosa ci scrive. Ah, ecco, vedi, questo vedi che ho imparato qualche cosa. Si chiama interazione. Sì. Maniera, puoi collegare le tue sinapsi? Vabbè, questa è la professoressa Ramponi che ogni tanto ci rampogna. Va bene, e allora però vediamo qualche altra notizia che tu hai qui sotto mano, perché allora, sei sempre sul pezzo. Sono sempre sul pezzo. Allora, sul pezzo di carta. Caro Leonardo, sai che in India sono sempre di più i ricchi, ma i ricchi proprio... straricchi. Ma straricchi, non so, c'è per esempio il re del petrolio, magnate del petrolio, Mukesh Ambani, che ha una casa da $1 miliardo, 27 piani, 600 persone di servitù. Questo è uno dei... Non si sente mai solo, ha un patrimonio da $43 miliardi. Ma poi c'è Lakshmi Mittal, che è il re dell'acciaio, vive a Londra, ha $16 miliardi di patrimonio. E poi anche altri. Insomma, in totale questo club esclusivo di indiani detiene lo 0,05% della popolazione e controlla un sesto delle ricchezze del tutto pianeta, mondo. Del mondo. Vedi, chi l'avrebbe mai detto che gli indiani... Ci sono anche i fratelli Nduja, che non sono calabresi. I fratelli Nduja, che hanno fondato questo colosso Nduja, hanno $9 miliardi. Sono tre... Che cosa producono? Non lo so. Non sei informato, non sei... C'è scritto. Ma no, non lo so, sono tra Ginevra e Londra vivono e ho capito. Gestiscono gli interessi del gruppo a Mumbai. Eh sì, Induja, il gruppo Induja. C'è Bollywood anche Bollywood che adesso India. Fa fine. A te piacciono le donne indiane? Ma cosa vuol dire? Ma ci saranno delle strafighe, ci saranno delle... Ma no, ma parla per generalizzazioni, che sempre bene. Per luoghi comuni. No, per luoghi comuni no, non tanto. Bisogna solo ma le indiane pelle rossa o le indiane dell'India? C'è Guido Scotti dall'altra parte del vetro. Lui è fanatico delle indiane. Delle indiane, sì. Lui ha avuto 7 fidanzate indiane. Che hanno il di neo tutte sempre le caste, di tutte le caste. Si disegnano il neo qui sulla fronte. Chissà perché. Ma è fosforescente il neo, così di notte anche uno... Chissà allora, perché poi noi facciamo cultura, quindi dovremmo spiegarlo il perché. E tu lo no, sai. No, io non lo so, così su due piedi. Siamo no, veramente... Ma credo sia la casta di appartenenza, insomma. Ah, ecco, potrebbe essere. Ma a me sembrano tutti uguali quei nei. Tu dici che ognuno ha delle particolarità per poi cui... Poi nei, non saranno dei nei. È una voglia di nei. È una voglia alla fragola, in realtà. Oh, vedo un altro articolo interessante. Donne contro femministe. Ma sì, perché sai che c'è la tendenza del femminismo, no? Però sta soprattutto... Cosa vuol dire poi questa frase molto generica? C'è la tendenza al femminismo. No, c'è il femminismo, ma c'è una tendenza, una controtendenza che si sta propagando soprattutto dall'America, di donne che invece rifuggono il femminismo. Si fanno anche fotografare I don't need feminism. Ti piace? Sì, cioè, cosa no, e a cosa sono favorevoli? Perché, alla supremazia del maschio. Ma no, dicono le femministe in realtà ci fanno danno. In realtà uno di questi slogan, di queste antifemministe, è I love the dick. Cos'è il dick? Ho capito, sai che non lo sapevo. Non è Moby Dick. Cioè, amo quella roba lì, insomma. E rivendicano, come invece di dire l'utero è mio, me lo gestisco io. Amo il dick. Il dick. Sai che non ho mai chiamato Dick? Sai che ognuno dà dei nomi particolari anche alle proprie intimità. C'è chi lo chiama, non so, Simone, così, e invece lo chiama Dick. Dick no. Che è anche più... Beh, in America qualcuno Dick lo chiamerà. Sì. Comunque, oppure un altro slogan, non sono una vittima, no? Perché sai, dico, cioè, sono rivendico il desiderio del Dick e non sono una vittima per questo. E quindi stanno crescendo queste... E il confine è sempre lì a metà fra insomma, femminismo, antifemminismo, tra donne che amano il Dick. Cosa vuol dire amare il Dick? Perché se ami il Dick non è detto che tu sia femminista o antifemminista. No, infatti. Cioè, lo ami e basta. Esatto, come noi amiamo il resto senza essere maschilisti. Spesso. Dire. De gustibus non disputandum est, giusto? Vedi, qui si fa cultura. Vediamo se qualche ascoltatore ha qualcosa da dire su queste notizie. No. Vediamo. Esatto. Pronto, buongiorno. Io all'apparecchio. Sono Alessandro Milan. Io sono Nino Campofiore, da Nicolosi. Da Nicolosi. E voglio dire che è una vergogna. Cosa? Che non ci sono più i valori di una volta. Non ci sono più le donne di una volta. Una volta le donne arrivavano vergini al matrimonio. Adesso invece arrivano al matrimonio quando ormai sono stanche di darla via. Si sposano per farla riposare. Addirittura. Cosa vogliamo dire delle ragazze? Che una volta le ragazze imparavano a fare quello che è necessario sapere per una donna: lavare, stirare, stendere la lavatrice. Adesso invece vogliono tutte salire a Milano a studiare scienza della comunicazione. Poi in casa con la famiglia non dicono una parola. Ma che minchia di comunicazione è? Vabbè, insomma, è uno studio. Mi lasci dire che in Italia tutti i problemi sono iniziati quando la donna nel rapporto sessuale col marito ha iniziato a pretendere di godere. Una volta la donna o stava in silenzio oppure fingeva di godere e le cose nella famiglia funzionavano. O il silenzio o la finzione. Lei è molto moderno. Un po' di silenzio e un po' di finzione alternate. Adesso no. Tutte ste donne pretendono di godere, vogliono l'orgasmo, pretendono l'orgasmo. E l'uomo deve imparare dov'è il punto G, che io non sapevo neanche che esistesse sto benedetto punto G, che è introvabile, che se una cosa è così difficile da trovare vuol dire che la donna è sbagliata. È la donna che è sbagliata. Ma dai, su. Nell'uomo il punto G è facile da trovare, è proprio in quel punto lì, invece nella donna è introvabile. E allora donna, se proprio vuoi godere, fai intorno al punto G un cerchio col pennarello, così anche l'uomo è facilitato. Capo, po' fiore, insomma, dai. Non ci sono più i valori di una volta, bisogna fondare un nuovo movimento, Italia dei valori di una volta, Italia dei valori di una, non ci sono più le cozze di una volta neanche, le cozze di una volta davano soddisfazione, erano piene di batteri, di virus, stavi tutto il giorno sulla tazza, circondato dall'affetto dei parenti. Adesso invece le cozze sono coltivate, non stai più tutto il giorno sulla tazza, le famiglie si sfaldano e arrivano gli sciacomunitari. Questa è la verità. L'Italia è un paese dei debosciati che è pronto per l'invasione degli islamici, così poi tutte le femmine, altro che scienza della comunicazione, andranno col burka a studiare scienza della comunicazione, così si risolvono tutti i problemi. E si ricordi che nella mia famiglia io sono il più progressista. Infatti, ecco. Arrivederci a tutti. Arrivederci, arrivederci. Ringraziamo il nostro ascoltatore Nino Campofiore. Insomma, ringraziamo. Beh, ha espresso un'opinione che mi sento di condividere. Tutte, soprattutto. Ma quale? Delle cozze? O no, che i problemi nella coppia sono iniziati quando la donna ha preteso di godere, di provare piacere, insomma. Un vero illuminista, sì. Le cose andavano meglio una volta, quando si faceva l'amore col lenzuolo, ti ricordi? Ai tuoi tempi? Poi si stendeva il lenzuolo fuori dalla finestra, sì, come segno dell'avvenuta consumazione. Certo. E poi si faceva l'amore solo per procreare e l'uomo andava anche a trovare piacere nelle case di tolleranza. Ma adesso tornano forse. Speriamo. Io rimpiango quei tempi in cui non c'era il divorzio, la donna doveva rimanere per forza con l'uomo, che poteva comportarsi nel peggiore dei modi. Quindi io, essendo fino a prova contraria un maschio, uomo, un maschio, condivido e rimpiango quei tempi che non ci sono più. Quei bei tempi andati. Benissimo. Scriveteci le vostre opinioni. No, Platone 24, chiocciola radio 24, chiocciola 24 Platone. Questa l'ha eccetera. Detta Leonardo Manera, quindi sì. Scrivete a lui. Ma sì, io rimpiango quei tempi, quindi se c'è qualche donna che eventualmente volesse così rivivere quei fasti, diciamo, ci contatti. Vedo un'altra bellissima notizia qui su Libero. Ma insomma, siccome siamo in agosto, qualcuno magari ci sta ascoltando e sta per andare in spiaggia oppure appena tornato dalla spiaggia, perché siamo anche in replica la domenica del 18, e va di moda anche quest'anno, in realtà va tutti gli anni di moda, il pareo. Sì, questa è una cosa che io vedo da anni, il pareo. Esatto. Cos'ha di particolare questo pareo? Però ogni anno raccontano pareo, che va di moda il pareo, perché, o meglio, sarong all'orientale. Il pareo, cioè, vabbè, un lungo pezzo di cotone o seta, il sarong. Rong vuol dire lungo e sa così. Sa cotone. Sa così, sa rong, lungo. Sa vuol dire o seta o cotone. Capito. Secondo me è rong. Canapa. No, perché si può fare, vedi qua ci sono tutte le figure, lo puoi fare tipo gonna, anche se sei fashion, un uomo, lo puoi fare tipo una donna, tipo costume con la spalla su anche al mercante, quindi la lo puoi fare tipo giù, lo puoi fare... Quindi la notizia che vogliamo dare qual è? Che il pareo va di moda. Bene, una grandissima notizia che... È una notizia che cambierà che l'estate sentiamo di tutti voi, Però sotto c'è sempre il costume. Sotto sì, oppure sarebbe bello nudi, andare nudi col pareo, nudi. Già più interessante. Io sono stato una volta sola no, al festival del pareo, no, con una vecchia fidanzata, no, con cui ti sei lasciato. Allora, con una vecchia fidanzata che saluto perché adesso vivi in Australia, si chiama Eleonora, io la saluto caso mai ci ascoltasse dall'Australia. Dunque andai in Sardegna. Sei rimasto affezionato molto a questa Eleonora. Sì, sono rimasto molto affezionato a questa Eleonora e andai al Sottovento. Sai cos'è il Sottovento? È un locale che era sotto il Billionaire. Sopra c'era fantastico. Il Billionaire, che adesso non c'è più. Sotto c'era il Sottovento. Io sono stato una volta al Billionaire. Io non sono mai stato al Billionaire, sono stato al Sottovento. E mi è venuto in mente il pareo perché erano gli anni in cui Briatore metteva il pareo. E c'erano tutti questi anziani, tristissimi, col pareo che imitavano Briatore, circondati da, immagino, prostitute. Mi sembravano prostitute russe, slave. Ma come ti permetti? E io li invidiati molto perché anch'io avrei voluto il pareo. Esatto. Ma vedi che era di moda, vedi che ogni estate è di moda il pareo. È sempre di moda il pareo. Forse non è più di moda scrivere che è di moda il pareo. L'importante è peccare, i peccatori, insomma, d'estate l'importante è fare qualche peccato in più. Merito ai peccati, sentiamo invece che cosa ne pensa il nostro prete di riferimento, che parla come il Papa, ma non è il Papa, perché è il prete di una piccola comunità, si chiama Don Danilo. Buongiorno Don Danilo. E parlo come il Papa, ma è il nostro linguaggio aperto di gioia che trasmette gioia a tutte le persone che ci ascoltano, e soprattutto questo messaggio che voglio dare ai giovani, perché ai giovani che voglio parlare, questi giovani che sono il futuro della nostra società. Questa è una cosa bella quella che sta dicendo, insomma i giovani sono il futuro della società. Vanno trattati con tutto rispetto, fatto perché il futuro della nostra società dipende proprio da quei giovani che adesso magari hanno 13, 14, 15 anni, ma che tra un anno ne avranno 14, 15, 16, dopo un altro anno ne avranno 15, 16 a 7, certo, fino a quando diventeranno la classe dirigente del nostro paese, il futuro del nostro paese. Certo, naturalmente. E che cosa possiamo dire a questi? Cosa possiamo dire a questi giovani? Che se fanno qualche piccolo peccato vanno perdonati. Giusto. Con una carezza sulla testa. Sì. Anche un piccolo colpo. Un colpettino. Ma vanno sempre trattati con i guanti. Magari sotto il guanto si può mettere qualche piccolo sassolino per dare qualche bel colpo sulla testa. Perché è vero che sono giovani, però un poco vanno puniti. L'importante è che non facciano peccati veramente gravi. L'importante è che non facciano peccati come qualche volta è capitato. Per che esempio? Non facciano il peccato del furto. Il furto. Io una volta ho trovato un adolescente che mi rubava in parrocchia, lo sa. Mi rubava i soldi delle offerte. E quindi? Allora io ho detto: vieni qui. Vieni qui che Dio ti perdona. Dio te perdona, ma io no. Gli ho detto, l'ho portato in sacrestia e gli ho dato una buona dose di cinghiate sulla schiena. Sempre cinghiate. Però per lenire il dolore avevo l'acqua santa. Sì. Ma non gli ho messo l'acqua santa, gli ho messo una buona dose di acqua salata che prima per sterilizzare la ferita avevo anche scaldato per bene. L'avevo messo quasi a bollire. A bollire. E l'acqua bolliva. Salata. E gli è andata anche bene. Gli è andata bene che non l'ho marchiato con la L del ladro. Perché Dio perdona, ma io no. Va bene, un po'. Io no, un po' eccessivo. Con la gioia nel cuore sempre. Però eccessivo, però sempre aperto ai giovani. Aperto ai giovani. Forse sembra un po' eccessivo, come cosa ne dici un po'? Ma un pochino sì, soprattutto sull'acqua che bolliva. Però fino a lì, Don Danilo, io... L'acqua che bolle, poi quando la guardi te dà quell'effetto, quella cosa... Sì. Lui la guarda mentre bolle l'acqua, io la faccio vedere al giovane. E poi lui la guarda, si sente quasi... Grazie a voi. Don Danilo, io direi invece adesso di andare a vedere, a sentire come procedono le avventure di Ratko. Ci stava raccontando della sua serata passata alla festa della Lega Nord. E a me, insomma, comunque suona strano che un rom vada alla festa della Lega, diciamolo. Ma perché, Manera? Ma guarda che ci stanno molti rom che sono leghisti. Riconosci subito i rom leghisti, perché sono unici che si sgomberano da soli. Vabbè. Ma adesso veramente vi racconto come sono finito io, prima volta a festa, come ho conosciuto festa Lega Nord. Eravamo una decina dei roulotte che ci avevano appena sgomberato da Bergamo, no? Quando a un certo momento, in una bellissima vallata, bella, ma io vedo una grande festa aperto, sai, vedevo gente che beveva, sentivo profumo di carne, subito a chiedermi, ma chissà quale gruppo rom appartenessero queste, magari Coracanè, rom Harvati, Calderasci, sai. Poi mi sono avvicinato un poco piano e ho capito che non erano rom, perché c'era gente vestita con armatura, spade, come a 500. Qualcuno aveva un cappello con corni, ma subito mi ho chiesto, ma dove sono finito io? Ho frito le quasi 1500? E invece era festa de Pontida Manera, altro che rom. E sai chi c'era sul palco che parlava? Chi c'era? Sindaco di Verona, come si chiama? Si chiama Tosi. Esatto, Tosi, sì. Quello che anche se è nato molti secoli dopo, io non so perché, ma secondo me lui ha ispirato scultori de teste de Isola de Pasqua, perché è uguale. Un po' simile. Sembra una Isola de Pasqua. E attorno al palco c'erano tutte queste bandiere della Lega Nord, sai che hanno questo simbolo che si chiama Sole delle Alpi, che io all'inizio credevo fosse una marca de burro, no? E invece cosa incredibile è che questa Sole delle Alpi, qua voglio fare un appello a ascoltatori di Radio 24. Andate su Google o altro motore di ricerca e guardate, mettete bandiera del popolo rom, guardate bandiera. Ebbene, quello che vedrete, quella ruota che c'è al centro, no? Che assomiglia un po' a bandiera quella dell'India, no? Sì. Ebbene, quello simbolo assomiglia a Sole delle Alpi, simbolo della Lega Nord, cioè i leghisti ci hanno fregato simbolo Manera. Ma tu capisci che se i leghisti vengono a rubare a Zingari, ma vaffanculo, non c'è più religione, no? Perché è una vita che a noi ci accusano di tutto. che rubiamo, sì, rubano loro, che siamo nomadi. Che siamo nomadi, è vero, che siete nomadi. Ma non è vero che siamo nomadi. Ma se ogni volta che io trovo uno posto per stare tranquillo, tu arrivi e mi cacci, non sono io nomade, sei tu che sei stronzo, Manera, scusa un momento. Ma perché ci hanno detto di tutto? Per esempio ci dicono che viviamo in mezzo a baracche, è vero. Però anche le ghisti sono sempre sotto a gazebo. Ma è una vita che per raccogliere firme contro di noi stanno accampati in mezzo a strada come zingari. Tanto che noi rom stiamo raccogliendo firme per togliere i ghisti di mezzo a strada, perché è una vergogna. Ma va a lavorare, va a fanculo. E adesso vi saluto amici, vado ad ascoltare il mio gruppo italiano preferito, i Nomadi. Arrivederci Ratko. Arrivederci Ratko. Ci sentiamo la settimana prossima con Ratko che continua a cantare. Ale, un altro luogo tipico dell'estate per gli italiani è il pronto soccorso. Ah, sì. Non è che vi vogliamo augurare buone ferie. Però può capitare. Pensa che io, per esempio, d'estate, giocando a tennis, ho rotto la milza. Poi, sempre d'estate, ho quasi perso un occhio andando sul windsurf. Poi, giocando a pallone d'estate, mi sono rotto il malleolo della caviglia. Comunque, di pronto soccorso, di problemi fisici, di persone che hanno bisogno di andare al pronto soccorso, ne parleremo dopo il traffico. Donna. Sei single ormai da troppo tempo e vuoi presentarti in forma all'appuntamento che rappresenta la tua ultima occasione? Allora copri tutti i tuoi evidenti difetti fisici con un massiccio utilizzo di Cerone Ghidoli, il cerone compatto che copre ogni imperfezione della pelle e la assesta per 3 mesi, dandoti così il tempo di illudere il tuo lui. Cerone Ghidoli, solido, solidissimo, compatto, si posiziona sulla pelle e non si muove nemmeno dopo un bagno turco. Cerone Ghidoli è il cerone che ti trasforma il viso e crea la famiglia sulla base dell'inganno, perché l'ultima occasione va sfruttata nel miglior modo possibile. Platone, la caverna dell'informazione. E allora, visto che siamo in estate, tempo di vacanze, tempo di allegria, parliamo di pronto soccorso. Esattamente, caro Leonardo. Perché i pronto soccorso d'estate sono molto più frequentati che d'inverno, perché le persone fanno sport che normalmente non fanno e noi abbiamo la fortuna di avere un nostro ospite praticamente fisso. Che è il dottor Mazza, che ci racconta sempre come funziona la sanità italiana. E a questo proposito, dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Come sta? Sto sempre benissimo, sono i pazienti che hanno dei problemi. Comunque la vita è una lotta continua contro le malattie, ma nella sanità pubblica i soldi sono finiti, dobbiamo risparmiare. Sì. Infatti una volta, quando lasciavamo una pinza nella pancia del paziente, ci preoccupavamo per la salute del paziente. Adesso ci preoccupiamo per la pinza. Quando un medico va in pensione, non lo sostituiamo con un altro medico, mettiamo il suo cartonato. Ma no. La settimana scorsa è venuto un pensionato che ha parlato col cartonato per mezz'ora, poi è andato via contento. Ha detto che non aveva mai trovato un medico così disponibile. Bene. Siccome al pronto soccorso non ci sono abbastanza posti letto, abbiamo creato i lettini solidali. Per esempio, su un lettino mettiamo un paziente con la pressione alta, sì, e uno con la pressione bassa. Li attacchiamo con un tubo e vediamo se si riequilibrano. In fase comunicante, effettivamente. Esattamente. Siccome i soldi sono finiti, invece di dare medicina usiamo i rimedi della nonna. Se viene qualcuno con la bronchite usiamo il rimedio della nonna, latte e cognac. Sì. Se viene qualcuno con la polmonite usiamo il rimedio della nonna, latte e cognac. Se viene qualcuno che soffre di insonnia usiamo il rimedio della nonna, latte e cognac. Se viene la nonna la ricoveriamo per cirrosi epatica. Alle donne che vogliono sapere se sono incinte non facciamo l'ecografia che è costosa. Le chiudiamo in una stanza per 3 mesi e vediamo se la pancia cresce. Nel frattempo chiediamo il riscatto alla famiglia. Poi quando il bambino nasce, se piange, gli diamo latte e cognac. Ma dottor Mazza, un mezzo disastro, la sanità. Comunque io l'aspetto sempre a pronto soccorso. Io guardi, verrò sicuramente, se mi dà l'indirizzo. L'aspettiamo tutti. Di corsa. Salute a tutti. Grazie. Arrivederci e buona estate. Arrivederci anche a lei, dottor Mazza. E allora questo era il dottor Mazza, con cui abbiamo la fortuna di collegarci tutte le settimane, che ci svela anche. Fortunelli, siamo molto fortunati. Se vuoi andare tu al pronto soccorso a trovarlo, io purtroppo ne ho frequentati parecchi, però sai, a volte le cose vanno così, l'importante è avere uno sguardo verso il futuro. Ti può capitare di tutto, romperti la milza, avere distensione al ginocchio, porca miseria, avere un'ipertrofia dei turbinati. Io non mi sono mai rotto un arto in vita mia, in 44 anni, non ho capito, devi... A me è capitato, io ho rotto 4 costole giocando a pallone. Sì. Più altre cose che non voglio star qui a rievocare per non amareggiarmi. Va bene, ma oltre ad avere il dottor Mazza, noi abbiamo anche la fortuna di avere delle persone che si trovano vicino dove accadono gli eventi. Per esempio, sarà capitato di sicuro a qualcuno degli ascoltatori di ritrovarsi in mezzo a un compito in classe, un esame universitario, e non riuscire a risolvere un esercizio. Ebbene, un cittadino di origine pakistane, durante il test scritto per la patente, ha cercato di farsi suggerire le risposte attraverso un auricolare collegato al suo telefono, ma per sua sfortuna questo, il telefono, è improvvisamente esploso e noi abbiamo al telefono un suo amico concittadino che gli era accanto. Buongiorno. Allora, grazie. Bene, lasciamo perdere i saluti, ci vuol dire cosa è successo? Sì, comprendo il suo punto di vista, però sa benissimo che per gli esami della patente ci si deve preparare. Sì, capisco ed è anche giusto che lei voglia denunciare la casa produttrice di telefonini. Credo che sia anche giusta la denuncia nei confronti del suo amico. Sì, d'accordo, però lei non può dare colpa alla motorizzazione. La ringraziamo per essere stato così chiaro. Alla fine però era chiaro. Solo la fine io ho capito, guarda. Sì, tempo d'estate, nonostante le vacanze, tempo comunque di televisione. Tempo di televisione, perché insomma non tutti possono andare in vacanza, c'è anche chi rimane a casa, e chi rimane a casa a volte si deve sorbire le repliche dell'ispettore Derrick, che sono già tante volte. Quella è anche una delle migliori che sì, a me piace, piace. Tacca tacca te. Io sono un grande appassionato delle repliche del tenente Colombo. A te piace il Colombo, grandissimo. Sì, sì. Che lei le guardi come se non sapessi chi è l'assassino. Sì, lo sai perfettamente. Certo. La mia puntata preferita è quella dove c'è il prestigiatore Santini. L'hai mai vista? Ah, sì. E io una bellissima anche con Johnny Cash. Però, insomma, vediamo se ha qualcosa a dirci in merito alla televisione. Chi? Lui, il professor Limoncelli. Professore, ben ritrovato. Buongiorno a lei, Milan. Come va? Mi fa sempre dispiacere parlare con lei. Ecco, appunto. Comunque, sono presente per motivi di dovere. Ecco, sono una persona ligia proprio dovere. Perfetto. Allora, professore, tra un paio di mesi ricomincia la stagione televisiva autunnale. Come la possiamo prevedere? Ma la televisione autunnale, diciamo, prefigura il ribaltamento della logica preesistente, il superamento di ogni ostacolo e la resistenza passiva, un organico collegamento interdisciplinare e la puntuale corrispondenza tra obiettivi e risorse. Cioè nulla. Ho detto frasi a caso per rappresentare quella che sarà la TV autunnale, ma siccome io sono critico e storico della TV e non un ignorante come voi, non posso permettermi di dire il nulla spacciandolo per verità assolute, ma il mio nulla, mi lasci dire, è una metafora di quella che sarà la TV autunnale. Quindi il mio nulla metaforico persegue una visione organica ricondotta a unità l'emersione di discrepanze e discrasie esistenti. Sì, cioè? Cioè nulla neanche questa volta, ci è cascato anche questa volta. Milan, lei Milan è proprio un pollo. Io continuo a dire stronzate, lei continua ad ascoltarmi, esenziando il mio ego. Esenziando? È una parola che non esiste. L'ho inventata io adesso perché sono un grande uomo di cultura e quindi posso permettermi di creare neologismi che non significano nulla. Va bene. Esenziare, lei sa cosa vuol dire esenziare? No, nulla, in effetti nulla, no. Nulla, nulla, bellissima stronzata inventata da me. Mi dica, allora, mi dica. Senta, professore, ogni settimana, come ormai ben sa, le chiediamo cosa vale la pena guardare in TV, cosa non bisogna invece guardare. Partiamo da questo, cosa non bisogna guardare. Ma non bisogna assolutamente guardare i programmi giornalistici, programmi dove si approfondisce ben poco, come lei sa, essendone un protagonista. Ecco. Nei programmi giornalistici l'unica cosa che si approfondisce è l'ego del conduttore, che diventa sempre più grosso e smisurato. Poco alla volta l'ego del conduttore diventa enorme, per la notizia non c'è più spazio e quando si arriva a darla è già stata cancellata, smaltita, asfaltata dal cerone del giornalista alla Santoro. Quindi bisogna assolutamente evitare guardare quei programmi che sono in realtà delle stronzate assolute. Sempre pacato. Invece cosa bisogna guardare, professore? Guardi, voglio dare un consiglio a tutti gli ascoltatori. Il consiglio è di guardare una piccola emittente del digitale terrestre, Tele Eros 69, dove ogni sera dopo le 2 di notte ci sono delle strutturate inchieste giornalistiche dedicate ai sogni erotici degli italiani. Per esempio trasmettono tutti i video hard fatti in casa dagli italiani, con i loro giochi erotici. Per esempio c'è il gioco della malvivente e il poliziotto, della segretaria e il capufficio, oppure del marinaio e la balena. Il marinaio e la balena. Sì, naturalmente, è uno dei giochi erotici più diffusi. C'è l'uomo vestito da marinaio e la donna normalmente un po' in carne, travestita da balena. A quel punto la balena scappa per casa finché il marinaio la raggiunge e la trafigge con la sua fiocina. Professore. Queste sono le vere inchieste giornalistiche che hanno ancora un senso. Sì, un senso. Vabbè, professore, la ringraziamo, lei la fiocina. E ricordi, se viene a trovarmi a casa mia, facciamo il gioco del tonno col capitano Strom. No, guardi, lasciamo stare. Io porto la fiocina. No, io passo, guardi. Arrivederci. A lei, Mila. Professore, grazie. E allora anche per questa puntata abbiamo terminato, puntata in grande allegria, in grande spensieratezza, come si addice al clima di fine agosto. Noi vi ricordiamo, dopo aver ringraziato Fabio Cantadori in regia, Guido Scotti in regia, che non è che fa la regia ma è curatore, si dice? Ah sì, si può dire, Guido Scotti è tutto a Radio 24. È Radio 24, è Guido Radio Scotti. 24, Radio 24 è Guido Scotti è Radio 24. Qual è quella figura retorica per cui è una parte per il tutto? La sineddoche, cos'è? Metonimia, la metonimia, credo che sia la sineddoche, una parte per il tutto è Guido Scotti e Radio 24, si può dire, esatto, no? Esatto. Va bene, ringraziamo anche Danilo Vizzini e Luca Clobas che hanno dato voce a questo programma insieme a noi, poi Alessandro Milan. Grazie. E il sottoscritto Leonardo Manera. E vi diamo appuntamento sabato prossimo fissi per le 9 e in replica domenica alle 18. Ciao e grazie per essere stati con noi.